Cantine di Franciacorta. Un saluto da Paratico e dalla quiete del Parco dell'Olio. Siamo la cantina Bredasole dei fratelli Ferrari, azienda da 80.000 bottiglie di bollicine all'anno, 14 ettari di vigneto per un'attività iniziata sul finire degli anni 70, terreni morenici che danno vini aciduli ed eleganti. Luigi Ferrari ci racconta la filosofia di Bredasole. Filosofia da sole può uscire anche dal campo del vino. Siamo assolutamente persuasi che il lavoro dell'uomo deve essere messaggio e dialogo. Nel nostro mondo siamo fortunati che il frutto del lavoro si può gustare immediatamente, quindi attraverso il vino parliamo a chi acquista una nostra bottiglia. Senza che noi produttori magari diciamo nulla, a casa uno si ritrova con un prodotto nel bicchiere che racconta da solo la storia del terreno, della vigna e anche del lavoro che è stato fatto in vigna. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.